Ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro settimo, versi 159-490. Dopo aver consentito a Giasone di impossessarsi del vello d'oro, la maga Medea lo sposa, rientra con lui in Tessaglia e su preghiera dell'adorato sposo ha ringiovanito di 40 anni suo padre Esone. Le madri Tessale e i padri molto avanti negli anni, tutti per quei figli recuperati fanno offerte, struggono al fuoco cataste d'incenso, abbattono vittime sacrificali con le corna fasciate d'oro. Ma Esone no, non fa festa. Una lunga vecchiaia lo spossa, è troppo vicino alla morte. Allora suo figlio: tu donna, cui devo, perché tacerlo, se son vivo, che tutto quanto potevi mi hai dato, lo ammetto, accumulando meriti di là dall'immaginabile. Ascolta, se i tuoi incantesimi possono, e cosa non possono, storna dalla mia vita qualche anno e dallo a mio padre. E non trattiene le lacrime. Lei si commuove e ripensa, seppure con cuore diverso, a suo padre lasciato solo. Senza peraltro tradire l'emozione, ma che impietà t'è uscita di bocca! E mi pensi capace di trasferire a qualcun altro un tratto della tua vita, signore? Ecate, me ne guardi, non è giusto chiedermi questo. Ma io conto di darti ben più di quel che desideri, dice. Con le mie arti vedrò di allungare la vita del suocero, non con i tuoi anni, purché la dea Triforme mi assista e concretamente mi aiuti nell'impresa pazzesca, Giasone. Mancano ancora 3 notti perché i 2 corni, giuntandosi, completino il disco. Ma quando la luna pienissima splende e orienta il suo viso perfetto a guardare la terra, ecco Medea uscire di casa indossando una veste slacciata, a piedi nudi, i capelli disciolti sopra le spalle, e vagare senza una meta, sola sola, nei muti silenzi di mezzanotte. Un sonno profondissimo intorpidisce uomini, uccelli, belve, non un fruscio nei cespugli, nemmeno il fruscio d'una serpe acquattata come dormisse. Le foglie tacciono immote, umida tace l'aria. Scintillano giusto le stelle e alle stelle, tendendo le braccia, ruota 3 volte su sé, 3 volte si bagna i capelli con l'acqua del fiume, poi, spalancata la bocca ululando 3 volte, piomba sulle ginocchia e grida: notte, custode dei misteri, e voi stelle d'oro che insieme alla luna vi avvicendate al bagliore del giorno, e tu, Ecate, con 3 teste che conosci i nostri progetti e agli incantesimi assisti propizia e alle arti dei maghi, tu che ai maghi procuri erbe prodigiose, terra, e voi brezze e venti e montagne e corsi d'acqua e laghi, e voi tutti, dei dei boschi, dei della notte, assistetemi. Grazie a voi ho fatto, trasponde allibite, rimontare fiumi alla fonte, con formule magiche sedo mari sconvolti e sconvolgo mari tranquilli, ammasso e dirado le nuvole, sperdo e scateno i venti con le mie formule magiche, trancio la gola alle vipere, scalzo le rocce vive dal suolo e le sposto di peso, trasloco querce, trasloco foreste intere e comando di tremare ai monti e comando di muggire alla terra e i morti mi tornano su dalle tombe. Anche te convoco, luna, per quanto i bronzi di Temesa attenuino i tuoi tormenti. Impallidisce il carro del nonno ai nostri incantesimi, l'aurora ai nostri veleni. Voi le fiamme dei tori mi avete soffocato e imposto a quei colli renitenti il traino ricurvo dell'aratro. Voi avete istigato i figli del drago a infierire l'uno sull'altro e affogato nel sonno il custode insonne, l'oro sottratto alla sua guardia, in terra di Grecia lo avete avviato voi. Ora mi servono filtri perché un vecchio recuperi il fiore degli anni e torni il ragazzo che era. Voi me li darete, lo so, qualcosa vuol dire se le stelle brillano tanto. Vuol dire qualcosa se il carro tirato da rettili alati è qui da me. Lì da lei c'è un carro disceso dal cielo. Appena montataci su, carezzate le bestie sul collo e con mano leggera scosse appena le redini è rapita in alto Medea e sorvolando la valle di Tempe in Tessaglia dirige i serpenti dove sa lei. Esamina le erbe che crescono sul monte Ossa, sul ripido Pelio, sull'Otri, sul Pindo, sull'Olimpo più alto del Pindo, e quelle che ha scelto o le scalza con tutte le loro radici o le recide alla base col falcetto curvo di bronzo. Molte altre che la interessano le trova in riva al Lapidano, molte in riva all'Anfriso, e anche tu, Enipeo, ti presti. Ne mancano i contributi del Peneo o del fiume Sperchio o delle sponde del lago Bebe coperte di giunchi. E cogli ad Antedone euboica l'erba vivificante, non ancora famosa per la mutazione di Glauco. In capo a 9 giorni, in capo a 9 notti, perlustrata ogni regione sul carro dei rettili alati, ecco che torna. I serpenti, che han sentito giusto l'odore dell'erba, si sono spogliati della vecchia pelle lo stesso. Rientrata a casa, Medea si arresta alla soglia dell'uscio, sotto la volta del cielo, evitando qualsiasi contatto col maschio. Erige 2 altari di zolle e dedica quello di destra a Ecate, quello di sinistra alla giovinezza. Una volta inghirlandatili di verbene e di frasche e scavate nel terreno non lontano di lì 2 buche, officia il rito sacrificale, piantando in gola a un'agnella nera di pelo il coltello e inondando le fosse di sangue. Ciò fatto, versandoci sopra 2 bacinelle di miele e 2 bacinelle di latte tiepido, sopra versandoci, pronuncia parole intese a calmare gli dei della terra e supplica il re delle ombre e la sua sposa rapita che non si affrettino troppo a sottrarre la vita a quel vecchio. E dopo averli acquietati, sussurrando lunghe preghiere, dispone che il corpo sfinito di Esone si porti all'aperto. Con il suo canto incantato lo immerge tutto nel sonno e lo fa sdraiare su un letto d'erba che sembra morto. Allontana suo figlio Giasone con tutta la servitù, intimando a quegli occhi profani di non profanare i misteri. Si eclissano tutti. E Medea, i capelli al vento, quasi fosse una baccante, ruota intorno agli altari, inzuppa fiaccole di fastelli nelle fosse nere di sangue e zuppe le accende alla fiamma degli altari, 3 volte col fuoco, 3 con l'acqua, 3 con lo zolfo purifica il vecchio. Intanto, in un vaso di bronzo bolle un filtro potente e si gonfia e deborda una schiuma bianchiccia. Lì dentro Medea mette a cuocere 7 radici scalzate in fondo a una valle di Tessaglia, con 7 semi, 7 fiori e 7 succhi velenosi. Aggiunge pietrisco dell'estremo oriente e sabbia sciacquata dalle risacche del mare oceano, aggiunge rugiada colta una notte di luna piena ed un pesto schifoso di ali di strige con tutta la carne attaccata e frattaglie d'un lupo di quelli che assumono, bestie feroci che sono sembianti di uomo. Ne può mancare la muta d'un chelidro tripolitano sottile e tutta squamosa o il fegato d'un attempato cervo congiunta di becco e testa d'una cornacchia di 9 secoli e passa. Approntata con questi e con 1000 altri non registrati ingredienti, un'impresa che eccede l'umano, la principessa Barbara, con un rametto essiccato d'ulivo, rimesta il tutto, così da confondere il fondo con la superficie. Ed ecco che il vecchio legno, rimenato nel vaso bollente, comincia col rinverdire, poi subito, ecco, si veste di foglie, ed eccolo già oberato di olive carnose. E dappertutto il fuoco spruzza schiuma dal vaso di bronzo e le gocce bollenti cadono in terra e la terra rifà primavera e le spuntano fiori e un tappeto d'erba. Appena lo vede, Medea, sfoderata la spada, recide la gola al vecchio e una volta drenato il vecchissimo sangue lo rimpiazza col succo. Esone non fa in tempo ad assorbirlo attraverso la piaga o per bocca, che tanto la barba quanto i capelli cancellano il bianco e ridiventano neri. Svanisce quell'aria disfatta, spariscono dalla sua faccia pallore e squallore, il tracciato delle rughe rimargina, il corpo recupera tono, lussureggiano i muscoli. Esone non crede ai suoi occhi a vedersi com'era 40 anni prima. Dall'alto del cielo, libero Bacco ha visto questo popò di portento e capisce che può ridare la giovinezza alle sue balie e chiede il favore alla donna del Caucaso. Pur di non rinunciare ai suoi trucchi, la donna del Caucaso finge di detestare il marito e chiede asilo ai palazzi di Pelia. Essendo anche lui aggravato dagli anni, a riceverla son le figlie. È passato pochissimo tempo che, simulando una grande amicizia, la astuta straniera già le ha sedotte. Fra tutti i suoi meriti, il primo che vanta è quello di aver rimesso in forze Esone e insiste sull'argomento, tanto che la speranza di veder rifiorire il padre con procedura analoga si insinua in quelle fanciulle. La implorano, il prezzo pretendono che lo decida lei. Per un po' lei resta in silenzio, come fosse perplessa, e alimenta l'ansia di chi la supplica, affettando pensosità. Alla fine acconsente. E per fare che vi fidiate di più delle mie prestazioni, dice, prima il capo del gregge, il montone più vecchio, coi farmaci lo rendo un agnello. Subito le trascinan davanti un bestione lanoso, sfatto dagli anni, con le corna che si attorcigliano intorno alle tempie scavate. E lei gli pianta il coltello di tessaglia nel flaccidume del gozzo, macchiando la lama d'una goccia appena di sangue. Poi immerge il corpo del pecoro in una vasca di bronzo insieme a succhi potenti. Si assottigliano gli arti, vanno in fumo le corna e con le corna gli anni. E dalla vasca si sente un belato debole debole. Un attimo e nello stupore generale saltella fuori un agnellino in cerca di poppe piene di latte. Le figlie di Pelia trasecolano e, constatato che possono fidarsi delle promesse, aumentano le pressioni. 3 volte Febo ha sfilato i finimenti ai cavalli immersi nelle acque di Spagna, e la quarta notte scintilla di sprazzi di stelle, quando la subdola figlia di Eeta mette a bollire sul fuoco acqua fresca ed erbe qualsiasi. Un sonno che sembra la morte si è già impadronito del corpo arreso del re e di quanti gli fanno la guardia, sonno indotto dalla potenza di nenie e formule magiche. Con la maga, lei lo ha voluto, si introducono dentro la stanza le figlie e circondano il letto. Perché state lì impalate? Col pugnale aiutate il sangue vecchio a scolare, comanda, se no non posso riempire le vene di sangue novello. La vita e la giovinezza del babbo dipendono da voi. Se avete un po' di pietà, se non vi basta cullarvi in vuote speranze, aiutatelo, scacciate la sua vecchiaia col ferro, appugnalate, cavategli il sangue corrotto. Istigate così quanto più pietose, tanto più empie, per non essere infami, commettono infamia. Nessuna può guardare però i propri colpi e girando la testa continua a menare il pugnale ferocemente alla cieca. Il vecchio, in un fiume di sangue, si puntella sul gomito e tentando semi squartato di sollevarsi dal letto tende le braccia esangui sotto il diluvio dei colpi. Figlie, che state facendo? Chi vi spinge a mettere a morte vostro padre? Dice. Le figlie si sentono mancare il cuore e la mano. Lui avrebbe da dire altro. La donna del Caucaso gli sega la gola e lo butta a pezzi nell'acqua bollente. Beh, se i serpenti piumati non avessero preso il volo, Medea non avrebbe evitato il castigo e fugge nel cielo. Sorvola il Pelio, ombrosa dimora di Filira, l'Otri sorvola, regione ben nota per la storia del vecchio Cerambo, che ai tempi di Deucalione, quando l'oceano sommerse la torpida massa del mondo, scampò l'invasione delle acque, sospeso per aria su ali procurategli dalle ninfe. Sulla sinistra Medea si lascia Pitane Eolica e il simulacro di pietra di un interminabile drago, la foresta del Monte Ida, dove Libero Bacco occultò, camuffato da cervo, il bue rubato dal figlio, e dove sotto un palmo di sabbia è sepolto il padre di Corito, e dove Ecuba terrorizzava i campi di strani latrati. E la città di Euripilo, dove alla partenza degli uomini di Ercole, alle donne di Cos spuntarono tanto di corna. E Rodi, carissima a Febo, e Ialiso, dove i telchini infettavano solo a guardarla qualunque cosa, finché, indignato, Giove li affoga nelle onde di suo fratello. E rasenta le mura di Cartea, nell'antica Ceos, dove Alcidamante si meravigliò nell'apprendere come dal corpo di sua figlia spigasse una colomba. Poi vede il lago di Irie e a Tempe la valle di Cicno, celebre per un cigno improvviso. Infatti lì Filio, dietro ordine di quel ragazzetto, gli aveva donato una serie di uccelli e un leone domestico. Comandato di vincere un toro, lo aveva vinto, ma seccato dal suo continuo negarsi, quel dono ambitissimo non glielo consegnò. «E quello adesso ti penti!» gridava indignato, gettandosi giù da una rupe. Tutti lo pensavano sfracellato, ma lui dondolava per aria sulle bianche piume d'un cigno. Irie, sua madre, però, non credendolo vivo, si sciolse in lacrime e fece un laghetto che chiamano come lei. Lì vicino c'è la città di Pleurone, dove, sbattendo le ali, Combe sfuggì ai pugnali dei propri figlioli. Poi la Calauria vede, territorio devoto a Latona, che vide mutato in uccello il re con tutta la moglie. Sulla destra ecco Cillene, dove Menefrone un tempo intendeva accoppiarsi con sua madre come una bestia. Di lì si gira a guardare da lontano il Cefiso in lutto per suo nipote, cambiato da Apollo in foca grassoccia, e la casa di Eumelo, che piange il figlio perso nell'aria. Alla fine, sulle ali dei rettili, arriva a Corinto, bagnata dalla fonte Pirene, là dove nella notte dei tempi, raccontano i vecchi, persone sarebbero nate da funghi piovani. E lì, una volta consunta di veleni, la sposa novella di Giasone, e bruciato il palazzo del re che guarda i due mari, la madre intinge la lama infame nel sangue dei figli e si sottrae, vendicata, alla vendetta dell'uomo. Di lì, sulle ali dei draghi, regalo del sole, perviene alla rocca di Atena, che vide te, Fene giustissima, e te, Perifante, prendere il volo insieme e dileguare in aria, su insolite penne, la nipote di Polipemone. Egeo, già solo per questo deprecabile, accoglie Medea, ma non gli basta, che arriva a unirsi in nozze con lei. Ed ecco spuntare, fin lì sconosciuto a suo padre, Teseo, che col suo valore ha placato l'istmo fra mare e mare. Medea, per ucciderlo, mescola in un intruglio l'aconito che ha portato con sé dalla Scizia e, a quanto si narra, deriverebbe dai denti del cane figlio di Echidna. C'è una grotta cieca da cui per una fessura di tenebra accedi a un sentiero in pendenza. Per quello l'eroe di Tirinto con una catena d'acciaio trascinò fuori Cerbero per quanto recalcitrasse, torcendo gli occhi feriti dal barbaglio del sole, il cagnaccio, e pazzo di rabbia riempisse l'aria di 3 latrati alla volta, disseminando il verde della campagna di gocce di schiuma bianca. Quella, nutrita dall'ottimo terreno, a quanto si dice, cristallizzando, acquisì la virtù di nuocere, e dato che attecchisce e cresce sui sassi, la chiamano aconito, greco acone, cote di pietra. Istigato dalla consorte, Egeo stesso porge a suo figlio il tossico come a un nemico. E Teseo ignaro ha già preso in mano il bicchiere che il padre riconosce sull'elsa d'avorio della sua spada il sigillo della stirpe e con una manata gli strappa il veleno di bocca. In una nebbia evocata per magia, lei scampa alla morte. Il padre, per quanto felice che il figlio sia sano e salvo, all'idea che per un niente non è stato commesso un atroce crimine, rabbrividisce, accende il fuoco agli altari, riempie di offerte gli dèi, sui colli pieni di muscoli dei buoi con le corna fasciate di bende, piomba la scure. Non han mai festeggiato, si narra, gli eredi di Erette o un giorno più radioso di quello. Magnati e gente qualsiasi apparecchiano grandi banchetti e non mancano di cantare, ispirati dal vino, canzoni del genere. Immenso Teseo, Maratona venera te per il sangue del toro di Creta. Se il contadino di Cromion ara tranquillo i suoi campi, è per opera tua. Epidauro ha visto per opera tua stramazzare con la sua mazza il figlio di Efesto, e han visto la morte del torvo Procuste le rive del Cefiso. Eleusi, prediletta da Cerere, ha visto quella di Cercion. Tu hai tolto di mezzo quel Sinis che abusava della sua forza mostruosa con cui fletteva fino a terra i tronchi dei pini per proiettare lontano corpi ridotti in brandelli. È sicura la strada per Megara capitale dei Lelegi, da quando hai steso Scirone e le ossa sparpagliate di quel brigante, la terra non volle pigliarsele, non volle pigliarsele il mare. Strapazzate a lungo, raccontano, il tempo le avrebbe indurite in scogli, scogli cui il nome di Scirone è rimasto attaccato. Se confrontassimo, Teseo, i tuoi meriti con i tuoi anni, le gesta soverchierebbero gli anni. Per te, fortissimo, formuliamo pubblici auguri e ci ubriachiamo per te. Degli applausi e dei voti del popolo tutta la reggia rintrona e in tutta la città non c'è un angolo per la tristezza. Ciò non di meno, a tal punto, non esiste felicità perfetta, cioè non viziata da qualche apprensione, Egeo non si gode in pace il figlio ritrovato. Minosse prepara la guerra. Forte dei suoi soldati e dei suoi marinai, Minosse è peraltro fortissimo dell'ira d'un padre deciso a vendicare nel sangue, secondo giustizia, la morte del figlio Androgeo. Ma prima vuol procacciarsi alleati e con la sua flotta gloriosa vola di mare in mare. E così si associa Anafe e il regno di Astipalea, Anafe con le promesse, Astipalea con la forza. Di più, la piccola Mykonos e i campi argillosi di Chimolos e la florida Siro e Chitno e Serifo piatta com'è e Paro con tutti i suoi marmi e Sifno tradita a suo tempo da Arne l'infame. Ottenuto l'oro che pretendeva, fu mutata in uccello e da uccello brama ancora l'oro, gazza nera di zampe, vestita di penne nere. Olieros invece e Didime e Tenos ed Andros e Ghiaros e Pepareto, dove scintillano olive a grappoli, rifiutano l'appoggio alle navi di Cnosso. Minosse allora punta a sinistra su Enopia, regno di Eaco. Enopia l'hanno chiamata gli antichi, ma Eaco lui stesso le ha imposto il nome di Egina, che è il nome della sua mamma. La gente si accalca, smaniosa di conoscere un uomo talmente famoso. Gli corrono incontro Telamone e Peleo, più giovane di Telamone, e Foco, terzogenito di Eaco. Il sovrano, anche lui si presenta attardato dal peso della vecchiaia e chiede a Minosse il motivo di quella venuta. Costretto a rievocare il suo lutto di padre, sospira il monarca di cento e cento nazioni e risponde con queste parole. «Ti prego, in armi mi vedi per mio figlio. Aiutami in questa santa guerra. Altro non voglio che consolare una tomba». Di rimando il nipote di Asopo: «È inutile. La mia città non può farci nulla. Non c'è alleanza più stretta di quella che ci lega ai nipoti di Cecrope. Alleanza più stretta non c'è». E l'altro, triste, partendo: «Vedrai quanto cara ti costa questa alleanza», dice, convinto che minacciare guerra sia meglio che farla, logorando forze in anticipo.